Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi direi di metterci subito al lavoro e di imparare a usare le dita a nostro vantaggio. Parliamo infatti di shiatsu, che è una forma tradizionale di massaggio giapponese che utilizza la pressione delle dita per alleviare dolore, tensione, ma anche per ridare tono ed energia. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Fulvio Palombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea. Professor Palombini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, professore, lo shiatsu può venirci in aiuto, direi, in molte occasioni. È una tecnica che possiamo imparare, lei ci aiuterà a farlo e utilizzare al momento opportuno. E a proposito di pressione, professore, io ho notato che tutti noi istintivamente, quando avvertiamo dolore, cerchiamo di massaggiare o premere la parte, di eseguire appunto una pressione, e spesso con piacere ci accorgiamo che la morsa si allenta. Chiedevo allora se lo shiatsu poteva essere utile anche per risolvere un problema molto diffuso e fastidioso, i crampi. E parlo dei crampi che a volte ci mordono il polpaccio di notte, ma di quelli anche che insorgono quando magari facciamo attività sportiva. Giocando a tennis magari, mi è successo proprio l'altro giorno. Bene, allora. Lo shiatsu è una terapia giapponese, in Giappone è riconosciuta, è una tecnica efficacissima basata proprio su questo aspetto. Premo laddove è dolore per togliere la tensione. I crampi, il polpaccio è uno dei punti dove più si accumula la tensione, perché siamo sempre in piedi, perché è un muscolo posturale importantissimo, quindi lì i punti di forza si accumulano e noi dobbiamo cercare di togliere queste tensioni. Quindi un piccolo esercizio per chi gioca a tennis e per chi non gioca a tennis, soprattutto prima delle partite, prima di uno sforzo muscolare e anche dopo, magari anche dopo stando a letto durante la notte quando arriva un po' di fastidio alle gambe, molto semplice, o sdraiati o stando seduti, con la mano destra si prende il polpaccio destro, si cerca di flettere il ginocchio, si prende il polpaccio destro, si cerca di lasciare il piede dolcemente appoggiato sul letto o su un tavolino da qualche parte, la gamba deve essere rilassata, e a partire da quello che si chiama il cavo popliteo, che è proprio la piegatura, per intenderci, del ginocchio, leggermente più sotto del cavo popliteo, con il pollice si fanno delle pressioni lunghe e ripetute, almeno 5-6 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, si preme morbidamente, si arriva a quel punto di piccolo dolore, non si deve esagerare naturalmente, questo è auto shiatsu, non è lo shiatsu fatto da un terapeuta professionista, quindi quel piccolo dolore, si preme su quel piccolo dolore e si rilascia, e si fa questo lungo tutta la gamba fino a quello che tutti conoscono, credo, si chiama il tendine d'Achille, quel grosso tendine che poi arriva sul piede. Il tendine non va premuto, quindi si preme proprio sul ventre muscolare. 1, 2, 3, 4, 5, ci si sofferma un momento su quel piccolo punto di tensione e poi si rilassa, e si fa questo per 2-3 minuti. Prima la gamba destra, poi la gamba sinistra, 3-4 volte per lato, e io vi assicuro che si può trovare un grande sollievo. Professor Palombini, grazie, lei è davvero speciale, noi andiamo, le auguro buona giornata innanzitutto. Grazie anche a voi. E adesso noi vogliamo al nostro sommario. Il bisturi può aspettare, quando la prevenzione vince sulla chirurgia. Integrale? Sì, grazie. Sì, saggio. Cambiati il costume bagnato. In principio era il bisturi che veniva impugnato con grande disinvoltura, no? Dato che era considerato una sorta di salvavita, bastava a volte poco, un'infiammazione, un fastidio, e senza indugio si veniva portati in sala operatoria. Adesso le cose non stanno più così, anzi in alcuni casi in camera operatoria non si va neppure, o si passa, no? Solo per poco. L'anestesia generale cede il passo a quella locale, la chirurgia ce l'ha aperta a quella mini invasiva e si ritorna a casa veloci veloci. Di questo parleremo per capire, no? Se, che cosa dobbiamo sapere Bene, se questa è la situazione, noi abbiamo pensato che potesse essere utile, no? Parlarla e commentarla per disegnare una sorta di mappa che ci permetta di orientarci senza perdere la bussola tra le nuove e le vecchie operazioni. In linea con me, con noi, anzi, ho il dottor Gargiulo. Buongiorno dottore, lei non ha bisogno di presentazioni, è un volto notissimo anche. La ringrazio, spero che la voce lo sia altrettanto e un saluto ai nostri ascoltatori. Medico di famiglia, infatti, è consulente medico della trasmissione Elisir. E qua in studio con me un altro volto noto, però penso solo per me, Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Non ti vediamo in video, infatti, ma ti leggiamo sul giornale. Certo, ma a me basta che tu mi conosci, no? Va bene, questo ti fa piacere. Lungo tutto il corpo umano ci sono dei punti, no? a cui sottolineare, e voi vi siete occupati di diverse operazioni, no? Sì, ne abbiamo preso in considerazione 12, diciamo, delle classiche, dalle tonsille all'ernia del disco, passando anche per la parte ginecologica. E il titolo che ci è venuto in mente è carino, io trovo, lo tengo, lo tolgo, come se fossimo noi a decidere se tenerci un organo o no. Come però, quando uno va a fare un po' di pulizia negli armadi e dice questo maglione lo tengo, dai, è vecchio ma funziona ancora. Allora, come cicerone avremo appunto il dottor Gargiulo, partiremo dalla testa, scenderemo sino ai piedi fermandoci nei punti critici per vedere se il bisturi, dottor Gargiulo, dice ancora la sua o è stato messo in soffitta, sostituito da strumenti più moderni e anche più efficaci, dottore? Ma no, in soffitta direi proprio di no, anche perché il bisturi rimane sempre un elemento fondamentale, però è stato molto ridimensionato. La chirurgia nell'arco degli ultimi 20 anni, 25 anni ha cambiato molto il suo modo di essere, il suo modo di approcciare soprattutto. Senta dottore, proviamo a fare una classifica, una sorta di chi sale e chi scende, così i nostri ascoltatori da casa hanno un po' un sommario, no? Un quadro della situazione che andremo ad affrontare nel corso della nostra trasmissione? Sì, va bene, partiamo dall'alto. Diciamo che uno degli interventi classici sono le tonsille e che a questo punto possiamo dire scendono, nel senso che le tonsille oggi si conservano abbastanza, quindi nella classifica degli interventi potrebbero scendere. Abbiamo la tiroide subito vicino alle tonsille, anche questa ha avuto un momento di gloria e poi anche qua riscende un po'. Continuiamo, scendiamo ancora più in basso verso il fegato, la colecisti, qui è cambiata, la tecnica è completamente, radicalmente cambiata, forse più avanti lo vedremo più in dettaglio, e ancora tutto l'intervento sull'intestino. Possiamo già anticipare che un intervento di un treno non ne parleremo, che è la vecchia resezione gastrica, ormai soppiantata dai nuovi farmaci che curano l'ulcera e soprattutto dalle nuove indicazioni sulla eziologia, sulla causa dell'ulcera, che è una causa infettiva e non ha più bisogno del bisturi. Interventi che ancora sono importanti sono l'intervento delle emorroidi, questo sì. È un problema che affligge molta parte della popolazione e che anche qua credo che qualche sorpresa la sentiremo, perché si sta cambiando anche qui un pochino la rotta, si cambia un po' il modo di vedere, soprattutto il modo di approcciare questa patologia. E infine forse l'intervento ortopedico per eccellenza, quello che era l'ernia del disco, una volta affrontata in modo molto drammatico, successivamente con l'avvento delle nuove tecniche di imaging è stata affrontata in modo forse superficiale, quindi un po' troppo interventistica, oggi comincia a trovare una collocazione giusta fra l'ortopedia, la fisioterapia e la chirurgia ortopedica. Ne parleremo nel corso della trasmissione, restate con noi. Una mela al giorno. Integrale? Sì, grazie. Potrebbe riassumersi in questo slogan la raccomandazione degli esperti ad inserire nella dieta gli alimenti integrali, pane, pasta, biscotti, cereali in genere. Una raccomandazione non seguita dai più, forse perché è ancora molto diffusa e radicata l'idea che l'integrale abbia un sapore diverso, a cui bisogna un po' abituarsi, e che gli alimenti integrali in genere non richiedono un po' più di attenzione nella preparazione e nella cottura. Per sfatare alcuni luoghi comuni, ma soprattutto per capire perché i medici caldeggiano il consumo degli alimenti non raffinati, ho invitato il professor Berrino, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Allora, professor Berrino, iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando. L'aggettivo integrale sta ad indicare alimenti che non sono stati industrialmente raffinati, Molto spesso l'industria propone dei cibi che sono stati impoveriti di nutrienti, di sostanze utili alla nostra fisiologia. Le ragioni sono molteplici. La principale è che una farina bianca, una farina 00, per esempio, si conserva molto meglio che una farina integrale. La farina integrale dopo vari mesi comincia a fare le farfalline, no? Sì. E quindi commercialmente è molto più utile. E poi anche certe applicazioni gastronomiche, no, di dolci raffinati può rendere di più. Però intanto gli togliamo delle sostanze molto utili che ci sono nei cereali, no? È per questo che noi insegniamo ad utilizzare i cereali nella loro interezza, no? Anche per la pasticceria, per esempio, no? Per questo facciamo i corsi di cucina. Un altro cibo raffinato in grande consumo è lo zucchero, no? Lo zucchero è praticamente una sostanza chimica pura, no? E stiamo veramente esagerando con il consumo di zucchero, no? Lo zucchero è molto dannoso per molte cose, non solo perché fa venire le carie nei denti, no? Ma in particolare perché è una delle principali cause della obesità nella nostra popolazione. Quindi noi proponiamo di andare verso l'integrale, il non raffinato. Facendo attenzione al finto integrale, perché in molte panetterie si trovano dei pani integrali che in realtà sono fatti con una farina raffinata a cui è aggiunta una manciata di crusca. Così abbiamo il danno della farina raffinata e il danno della crusca, perché la crusca di per sé non è un alimento. Cioè, è interessante se è integrata in tutte la completezza del cereale, ma isolata non ha molto senso. Quindi, professore, noi dobbiamo cercare alimenti anche nelle etichette preparati con farina integrale. Con farina integrale, ecco. O anche semi-integrale, farine setacciate, insomma, quando in pasticceria, per esempio, a volte si preferisce non avere troppa fibra. Certo. Perché non è... Senta, professore, lei diceva, togliamo i cereali con la raffinazione qualche cosa che invece è utile. Certo, cosa gli togliamo? Cosa gli togliamo? Gli togliamo fondamentalmente i germi, gli togliamo tutte le vitamine. I cereali sono ricchissimi di vitamine antiossidanti, di vitamina E in particolare, no? E gli togliamo le fibre, no? Le fibre che sono molto utili per la buona funzione del nostro tubo digerente, no? Sì. E anche per la prevenzione del cancro. Ma non serve mettere dentro delle fibre isolate, no? Ci vuole il mix, no? Ci vuole quello che il buon Dio ha messo nel... Inutile nel togliere e poi aggiungere, lasciamo così? Esattamente. Vero? Esattamente. Senta, professore, non si può da un giorno all'altro, almeno credo, no? Sia difficile passare dal raffinato all'integrale, è meglio procedere per gradi. Certo. Dato che voi all'Istituto dei Tumori organizzate anche dei corsi di cucina, come lei ha ricordato, quindi abituate, no, anche a prendere un po' dimestichezza con questi sapori, ci aiuti a dare qualche indicazione ai nostri amici, certo, in ascolto, in modo da fare gradualmente questo passo, no? L'importante è proprio la gradualità, nel senso che l'intestino che non è abituato a mangiare dei cibi integrali, se improvvisamente ti metti a mangiare il pane integrale e i fagioli, no, e poi ti scoppia la pancia perché c'è una grande fermentazione, sì, insomma, no? Ma introducendoli con una certa gradualità si modifica la flora batterica intestinale. Sapete, nel nostro intestino vive un esercito di centinaia di miliardi di microbi, no? Cambiano i microbi, no? E vengono quelli che sono capaci di digerire le fibre, no? Sì. Per cui basta cambiare con una certa gradualità e nel volgere di un mese e mezzo non ci sono più problemi. L'altro suggerimento importante è quello di masticare molto bene, no? Noi siamo abituati a ingurgitare senza masticare e l'industria ci propone sempre delle cose sempre più fini e più, sì, grasse, che vanno giù senza bisogno di masticare, no? Ma se noi mangiamo dei cibi integrali dobbiamo masticarli, tutto dobbiamo masticare bene, ma in particolare il cibo integrale ci costringe un po' a farlo. Esattamente. Un'altra cosa è imparare a cuocerli bene, perché la gente si lamenta molto, no, che per cuocere i cibi integrali ci vuole molto più tempo, e io rispondo sempre, sì, ci vuole tempo, ma tu lo metti sul fuoco, poi lo lasci lì, metti la sveglia, non è che, sì, devi stare lì a guardarlo. No, non cuoce. Si culla. È una questione di una piccola organizzazione casalinga, insomma. Grazie professore, buona giornata. Buona giornata a lei, buona giornata agli ascoltatori. Pronto soccorso. Quando il bisturi può aspettare? In linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, qua in studio con me il collega Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Dottor Gargiulo, proviamo a così fare un elenco dei pregi e dei limiti della chirurgia mini-invasiva, che sta aumentando sempre di più in questi ultimi anni, e a noi come pazienti, no, ci sembra una chirurgia più leggera. Mini-invasiva, il termine già ci aiuta, ci permette di eseguire degli interventi senza ricovero o di andare a casa molto presto. Lei però, come medico, quali informazioni deve dare al suo paziente che viene da lei dopo essere andato dallo specialista dicendole: mi ha proposto questo intervento, chirurgia mini-invasiva? Lei che dice? Ma intanto dobbiamo dire che la mini-invasiva oggi ha raggiunto dei livelli eccezionali, perché abbiamo la possibilità di vedere all'interno delle cavità naturali, mettiamo all'interno dell'addome, con degli strumenti che consentono una visione panoramica paragonabile a quella che era quella del chirurgo quando faceva il taglio grande e apriva questo addome e guardava bene i visceri. Oggi, con queste strumentazioni che entrano attraverso dei forellini che possiamo definire minuscoli, riusciamo ugualmente a vedere bene. La capacità del chirurgo poi di manovrare degli strumenti sempre piccoli e manovrati a distanza, sotto controllo televisivo di quello che sta facendo, consente effettivamente di fare degli ottimi interventi che, uniti alle suturatrici automatiche che ci sono adesso a disposizione, diciamo, rendono più semplice l'esecuzione della tecnica chirurgica, a patto che il chirurgo abbia una buona manualità e abbia fatto un addestramento sufficientemente adeguato per questo tipo di interventi. Quindi consigliabili senz'altro, perché da un punto di vista estetico lasciano delle cicatrici microscopiche praticamente invisibili. Ci dimentichiamo quelle terribili cicatrici che attraversavano l'addome e che sono appannaggio della chirurgia di 20-25 anni fa. Non ci sono più, non esistono più. È evidente che bisogna lasciare al chirurgo il margine di manovra, cioè il chirurgo che deve decidere il tipo di intervento, certo, e mettere poi al corrente il paziente, soprattutto del rischio che l'intervento in mini-invasiva possa, per necessità tecniche, allargarsi con un intervento di trasformarsi tipo in un intervento, esatto, di tipo, esatto, tradizionale. Questo è importante saperlo, perché a volte si ha questa tendenza a dire: ah, ma il chirurgo non è stato capace. No, non è così, è che in realtà il rischio della non riuscita o addirittura il rischio della vita del paziente ci porta ad affrontare chirurgicamente in modo diverso. Alessandro voleva intervenire. Sì, grazie. Senta, dottor Gargiulo, tutto ciò è bellissimo e molto confortante, poi c'è sempre quest'idea, no, di un'anestesia un po' più leggera a casa, insomma, il nostro posto, manca solo che ci operino a casa e poi siamo a posto veramente. Però c'è un aspetto che forse coinvolge anche i medici di famiglia, e lo ripeto per l'ennesima volta, siamo abituati un po' troppo a trattarvi come ricettario, mentre potreste essere un riferimento valido soprattutto nel post-operatorio. Ecco, c'è un po' la sensazione, c'è stata anche qualche polemica, del fatto che comunque gli ospedali ci mandano a casa presto anche per questioni economiche. Quindi la vecchio adagio di rimanere in ospedale per tanti giorni in maniera molto noiosa, però era anche un'assicurazione, una polizza sulla vita. Lei cosa ne pensa? Convalescenze troppo brevi, chiede Alessandro Pellizzari, ecco, dottor Gargiulo. Un tema molto delicato e secondo me importante. Questa è un'obiezione giusta. Il discorso convalescenze troppo brevi mi trova assolutamente d'accordo, ma non per la degenza in ospedale. L'ospedale è un luogo dove si deve entrare, si deve essere sottoposti all'intervento, mettiamo il caso che ci sia necessità di un intervento chirurgico, e oggi, grazie appunto a queste nuove anestesie, al nuovo modo di approccio verso il paziente, si cerca il più presto possibile di fargli lasciare il letto di ospedale. Sì. Perché noi abbiamo visto che psicologicamente è un aiuto. Tornare a casa il più presto possibile. Però a casa bisogna farla la convalescenza. Forse quello in cui mancano un po' i colleghi ospedalieri, i chirurghi in genere, è il fatto di dire, ad esempio, nell'intervento di ernia inguinale: torna a casa e riprendi la tua vita normale. No, non è così. Torna a casa, riprendi la tua vita, ma attenzione, non fare sforzi per un certo periodo che è anche abbastanza lungo, 15 giorni, un mese, cerca di evitare impegni gravosi che possono portare a una recidiva. E questo vale un po' per tutte le convalescenze. Per interventi eseguiti, no? Con chirurgia mini-invasiva ed interventi tradizionali. Abbiamo in linea con noi Ilario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Sono Ilario, sono di Ponte di Legno. Sì. Complimenti al dottor Gargiulio anche per l'ISIR, che lo seguo sempre. Sì. Ecco, io volevo dire la mia testimonianza per l'ernia dal disco. Sì. Io avevo 3 protrusioni di ernia dal disco e con lo zonoterapia ho risolto il mio problema. Ho buttato via anni di dolore. Sì. Anni. Decine anni, e cioè non anni, però sì, però insomma tornate. Tanto dolore, tanto fastidio, risolto poi con l'ozonoterapia. Grazie il signor Ilario per averci chiamato. Dottor Gargiulo, una battuta rapida a Ilario. È discutibile l'ozonoterapia perché non abbiamo dati scientifici assoluti. Effettivamente più di un paziente mi ha riferito di aver trovato giovamento, però il dato è ancora empirico. Bisogna stare attenti a chi ci si affida per fare questa tecnica. Esiste una scuola, esiste anche un anno dei medici che praticano questa cosa. Cerchiamo di essere attenti nella scelta del medico. Allora, stanno arrivando diversi messaggi, uno ultimo in tempo reale sulla tiroide, quindi diamo un attimo precedenza alla tiroide, una ghiandola che ha un'importanza strategica, lo sappiamo, per la salute, che negli ultimi anni, come accennava il dottor Gargiulo, fa parlare molto di sé, no? Aumentano anche le tiroiditi, le infiammazioni della tiroide, anche i noduli in aumento e anche i casi di tumore alla tiroide. Dottore, però tutto questo aumento dei casi è stato reso possibile anche dagli esami, no? Che permettono al medico di vedere, di sapere quello che un tempo non gli era possibile. Assolutamente sì, le immagini che quando mi sono laureato io, ormai sono passati 30 anni, però all'epoca in medicina non sono tantissimi, noi la diagnosi sulla tiroide la facevamo fondamentalmente con una visita e con la palpazione del collo. Poi l'avvento dell'ecografia ha radicalmente cambiato il discorso tiroide e quindi si è cominciati a vedere una serie di noduli all'interno di questo organo che ci hanno portato un po' troppo facilmente ad operare. Adesso forse cominciamo a stabilizzare le cose, a capire bene. Bisogna affrontare il nodulo prima dal punto di vista medico, poi se questo nodulo presenta delle caratteristiche che possono disturbare la respirazione o la deglutizione, o se è un nodulo che si rivela essere maligno, l'intervento chirurgico si esegue anche qua con tecniche nuove, mini invasive, tagli piuttosto piccoli. Insomma, si è perso quell'idea del taglio chirurgico che attraversava completamente il collo, che era una buona scusa per le donne per farsi regalare un filo di perle, lo sa. Quindi le pensiamo tutti. Allora, quindi si sta un po' assistendo a un cambiamento. La buona notizia, insomma, che il bisturi è più leggero. Si pratica oggi una mini incisione, si usa una telecamera fibre ottiche, il che si traduce quindi in una cicatrice, no? Molto più piccola e anche meno rischi di alterazione alla voce. In linea con noi, pronto, abbiamo il professor Paolo Miccoli, che ho invitato, del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Università di Pisa, che ha messo a punto una tecnica particolare con la sua equipe. Professore, buongiorno. Buongiorno. Adesso facciamo un attimo di pausa, poi torniamo insieme. Vi aspetto, non mancate, a tra poco. Essere e benessere. E riprendiamo il tema di oggi. Oggi stiamo cercando, no, di fare un po' il punto sui cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni in campo chirurgico. Ci stiamo adesso occupando di tiroide. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Miccoli, il dottor Gargiulo ha anticipato, no, quali problemi può dare questa ghiandola. Ma professor Miccoli, quando si deve intervenire, entrare in sala operatoria e come sono cambiati gli interventi? I motivi per cui una patologia tiroidea ha bisogno del chirurgo sono sostanzialmente 3. O il nodulo scoperto è un tumore o comunque ha un forte sospetto di tumore, sì, generalmente acquisito con un ago aspirato e un esame citologico, oppure in alcune forme di grave ipertiroidismo, cioè in cui la ghiandola funziona in modo eccessivo e quindi la sua rimozione chirurgica può essere una delle soluzioni del problema, oppure, come accennava prima Gargiulo, perché il volume dei noduli in essa contenuti provocano una compressione sulla trachea o sull'esofago e quindi danno dei disturbi al respiratorio, alla deglutizione, all'alimentazione. Queste sono le 3 grandi categorie per le quali è necessario l'intervento chirurgico. Tutte le altre situazioni sono situazioni dominabili con terapie mediche o comunque situazioni in cui il medico può seguire il paziente senza necessità di un intervento. Per quello che riguarda invece quello che lei mi chiedeva, che cosa è cambiato molto nella chirurgia tiroidea. in un periodo, se vogliamo, anche non particolarmente lungo, sono entrati di diritto nella chirurgia tiroidea gli interventi mini-invasivi ed endoscopici. Sì. E questo è un dato di fatto che non è presente da più di 6-7 anni sostanzialmente. La tecnica che avete messo a punto, no? Sì. Presso l'università presso cui lavora, l'Università di Pisa, ha un nome preciso, si chiama tiroidectomia mini-invasiva videoassistita. Sì, esatto. È questa, esatto, che permette di avere dei tagli più piccoli, ma non è solamente un problema di taglio, no? Grande o piccolo, professore. Quando è possibile eseguire questo intervento, utilizzare questa tecnica al posto di quella tradizionale? E poi quali garanzie dà in più, ad esempio rispetto al rischio, no, delle corde vocali, che è un po' un timore che le persone che devono sottoporsi all'intervento hanno? Certo. Allora, non è solo, come diceva giustamente lei, una questione di lunghezza del taglio chirurgico, anche se con questo intervento si può eseguire una tiroidectomia con un'incisione di 1,5 cm, massimo 2 cm, lei capisce che questo fa una cicatrice che poi dopo qualche tempo diventa praticamente invisibile o quasi. Sì. E quindi questo è già un vantaggio cosmetico che... Sì. Dobbiamo rinunciare alle perle, dottor Gargiulo, eh? Sì. Però le perle non passeranno mai di moda, non sono come la chirurgia che cambia continuamente. Per cui questo aspetto cosmetico è importante perché è una patologia squisitamente, sì, femminile, la patologia tiroidea, quindi sicuramente c'è un'attenzione notevole. Ma indubbiamente nel concetto di chirurgia mini-invasiva sarebbe un errore limitare tale concetto semplicemente alla ampiezza dell'incisione. Chirurgia mini-invasiva significa una serie di vantaggi per il paziente che sono legati appunto alla minore invasività, che si traduce in un decorso operatorio meno doloroso, in una ripresa più rapida. Ci sono molti lavori che dimostrano come questi pazienti abbiano un decorso operatorio meno doloroso, facciano meno ricorso agli analgesici, abbiano un recupero più rapido. Quindi una conquista che è su tutta la linea, non soltanto su quella cosmetica o comunque, certo, estetica. Certamente purtroppo ancora non è una chirurgia per tutti. Per tutti. Perché... Ecco, diciamo allora, professor Miccoli, quali sono i casi, no, in cui è possibile effettuare applicare questa tecnica? Sì, allora i criteri di inclusione che noi abbiamo precisato nel nostro protocollo e che sono adottati in tutto il mondo sono quelli delle dimensioni del nodulo tiroideo, sì, che non dovrebbe superare i 3 cm, 3,5 cm. Quindi piccolo. Un nodulo abbastanza piccolo, anche se non microscopico, perché molti dei noduli, come diceva Gargiulo, molti dei noduli sono scoperti quando ancora sono centimetrici o subcentimetrici addirittura, quindi una quota non irrilevante di pazienti. E in una tiroide che non sia particolarmente grossa per motivi propri patologici, quindi una tiroide il cui volume tiroideo sia contenuto entro i 20-25 millilitri, quindi tiroidi sicuramente patologiche ma non enormi. D'altra parte è vero che queste patologie di grosso volume diminuiscono nel nostro paese di anno in anno, perché noi vediamo tiroidi sempre più piccoli, giustamente perché facciamo ormai la profilassi iodica è molto avanzata e quindi noi ci aspettiamo di trovare tiroidi sempre più piccole. Professor Questi Miccoli, pazienti sono soprattutto pazienti, sì, che hanno i noduli follicolari o i piccoli carcinomi papilliferi. Ciò detto è una quota almeno del 20% del totale dei pazienti. Professore, prima di salutarla voglio sentire che cosa ci chiede Sergio da Bari, perché magari ha bisogno di un suo aiuto, e se no la saluto. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie. Le ho tenuto i miei due esperti a disposizione per sapere a chi dobbiamo rivolgerci. Sergio, dica rapidamente la sua domanda. Senz'altro, grazie. Io ho 61 anni, sono stato sottoposto a un intervento di asportazione totale per tumore alla tiroide. Sì, allora per il professor Miccoli, sì. Esatto, e adesso... Dai controlli effettuati successivamente sono apparsi dei residui, per togliere i quali dovrò sottopormi ad un intervento di medicina nucleare. Sì. Quindi voglio sapere, le conseguenze sono del tutto innocue? Oppure ci sono dei rischi? Esatto. Grazie Sergio. Professor Miccoli, le chiederei una risposta precisa ma rapida, perché sì, il nostro viaggio continua e noi dedicheremo, certo, una puntata intera alla tiroide in cui sarà presente appunto il professore. Rischi? No, non c'è nessun rischio, non c'è nessun rischio di contaminazione radiologica, quindi affronti serenamente questa che è poi sostanzialmente una seconda fase rispetto alla chirurgia, una fase utile, importante, ma non pericolosa. Grazie professor Miccoli per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci e buon lavoro. Dottor Gargiulo, il nostro viaggio continua, direzione? Beh, a questo punto scendiamo in basso e io direi che la cosa migliore è passiamo sull'addome, arriviamo alla regione inguinale. Non abbiamo citata prima l'ernia inguinale, abbiamo solo accennata, e l'ernia inguinale è un intervento importante, un intervento che effettivamente ancora oggi trova un'indicazione ben precisa. Questa tumefazione che compare alla regione inguinale prevalentemente negli uomini è fastidiosa, è a volte dolorosa, ma bisogna anche dire che certe volte è anche pericolosa, perché può creare problemi nel momento in cui dovesse intasarsi o strozzarsi addirittura, quindi il rischio è quello di una peritonite. Di fronte ad un bozzo, a un rigonfiamento a livello dell'inguine, conviene sempre farsi dare un'occhiata. Deve essere dolente, dottor Gargiulo? Ma no, non necessariamente, anche se è una tumefazione nuova, una tumefazione che è comparsa, di solito le caratteristiche sono quelle di una consistenza piuttosto molle, però se c'è una tumefazione facciamoci intanto vedere dal medico di medicina generale, che sarà darà la prima indicazione. Poi il chirurgo stabilirà il tipo di ernia e eventualmente la necessità dell'intervento. Teniamo conto che non il criterio di dimensioni, cioè l'ernia piccola non si opera, quella grande si opera, non è corretto. Le ernie, le piccole addirittura si operano più facilmente di quelle grandi, perché sono quelle più a rischio, siccome passano attraverso un foro che ha delle dimensioni piccole, possono poi gonfiarsi e strozzarsi. Quelle più grandi forse sono meno pericolose. Dottor Gargiulo, domanda flash. Eccomi. Sulle ernie in generale si dice sempre, o almeno il pubblico la pensa così, me la tolgo ma però tanto poi mi ritorna. Ecco, sono così alte le recidive? No, non sono così alte le recidive, soprattutto adesso che la tecnica è quella della tecnica cosiddetta con la retina, cioè si applica questa retina di materiale sintetico che serve a tappare, passatemi il termine, questo buco, perché in realtà prima recidivavano in quanto l'intervento di ernia era un intervento estremamente difficile che comportava l'applicazione di un punto sull'osso, quindi il chirurgo doveva essere molto bravo e conoscere molto bene l'anatomia. Oggi la tecnica va incontro al chirurgo che ha magari anche un po' meno l'idea anatomica della zona, e quindi questa retina serve a prevenire. Qual è il segreto? Quello che dicevo prima, la convalescenza. Dopo l'intervento di ernia diamo tempo ai tessuti di ricostituirsi per bene, di ricreare una barriera naturale, e siamo abbastanza tranquilli che la recidiva non ritorna. E in linea con noi abbiamo Mario dalla provincia di Cagliari. Mario, buongiorno. Buongiorno, grazie per aver richiamato. Io ho chiamato per mia moglie che ha sempre sofferto di emorroidi, però non si è mai fatto operare per paura dell'intervento. Volevo sapere appunto se è giusto avere paura e se quando è giusto intervenire. E se fa male. E se fa male, chiede. Soprattutto è quello che è il terrore. Allora, vediamo se questo è un timore motivato oppure ci siamo lasciati un po' condizionare dal racconto di amici. In linea con noi abbiamo il dottor Paolo Gadioli, che è responsabile del centro di proctologia dell'ospedale di Volta Mantovana. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dottore, queste emorroidi, si fa fatica a parlarne, Sono molto dolorose, poi capita che quando uno inizia a parlarne, allora sì, le ho avute anch'io, forse mia mamma, allora io in questo momento, ecco, allora parliamone. Classico, È una malattia dell'umanità. Perché siamo circa 500 iscritti all'Organizzazione Nazionale dei Proctologi in Italia e abbiamo 500 teorie. Una diversa dall'altra, sì, ci dica la sua. Per noi fino a qualche tempo fa camminavamo a quattro zampe, giustamente, poi ci siamo alzati e tutta la circolazione si è andata a urtare nella zona maledetta, così chiamata, e per cui la circolazione lì è aumentata e ci sono stati vari problemi. Abbiamo una circolazione anche molto particolare, non c'è uno sfiocamento arterovenoso reticolare con la pressione che cala pian pianino, ci sono delle arterie abbastanza grosse che si buttano direttamente nelle vene abbastanza grosse. Se abbiamo un impedimento, per esempio la defecazione, naturalmente questo flusso si interrompe, il sangue torna indietro, ma a monte continua ad arrivare il flusso arterioso, per cui si dilatano queste vene. ma qui sto parlando di vene esterne, perché dobbiamo prima di tutto definire le emorroidi e soprattutto fare la diagnosi di emorroidi, perché ricordiamoci che ci sono quasi circa 100 malattie che colpiscono l'ano. E più delle volte sì, cioè è vero che sono emorroidi, ma un 40% non sono emorroidi. Allora, ecco, il rischio dell'autodiagnosi è di temporeggiare, esatto, di mettere da soli la cremina o la frase che terrorizza i proctologi, sa qual è? Saranno emorroidi. Noi vediamo purtroppo anche malattie molto gravi trattate, sì, per un anno o due con la pomatina per le emorroidi. Senta, e poi quale pomatina? Perché ci sono vari tipi di emorroidi. Quindi cambiano anche le pomate. Dottor Gadioli, io ho bisogno, quindi ha avuto anche il dottor Gargiulo lo sottolineava, l'importanza di non farsi l'autodiagnosi. Quindi andate a farvi fare una visita, anche se immagino non sia bellissima l'idea, un allettante, una visita dal medico. Dottore, io ho un minuto per entrare con lei in sala operatoria. Si operano, è così doloroso? Una volta era dolorosissimo, adesso è dolente, doloroso. Però intanto non mettiamo più tampone. Sì. Per cui c'è questo consolante, non so se qualcuno si ricorda, si mettevano dei tappi proprio da damigiana con la garza attorno. Adesso siete più delicati, ecco, quindi il tappo da damigiana non si mette più niente, e soprattutto non c'è più ricovero. Una volta stavano ricoverati 15 giorni, adesso si sta ricoverate solamente qualche ora. Già questo dà l'indicazione della diminuita pericolosità e del diminuito dolore, certo, e soprattutto della possibilità di terapie efficaci nel post-operatorio. Ringrazio i miei ospiti che ci hanno accompagnato fino a qui. Adesso andiamo a sentire che cosa succede su strade e autostrade, poi di nuovo insieme, a tra poco. Essere e benessere. È tempo di scoprire le gambe, ma direi anche i piedi, perché la stagione ci invita a buttare via, accantonare almeno fino al prossimo autunno le scarpe chiuse e indossare sandali infradito. Ma naturalmente i piedi, per essere mostrati, vanno curati. Spesso invece abbiamo un po' il complesso dei piedi, un po' perché la loro forma non ci piace, e su questa è madre natura, un po' perché sui piedi a volte si formano dei piccoli calletti. Allora oggi vogliamo cercare di capire come evitare il formarsi di queste iperkeratosi, come le chiamano i medici, e quindi darvi tutti i consigli necessari. Ci aiuta oggi il professor Luca Vagnina, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Podologo, presidente della Società Italiana di Podologia e coordinatore del Master di Chirurgia Podologica dell'Università di Madrid. Allora, professore. Beh, direi che nella vita di ogni essere umano almeno una volta un callo undurone capiterà, è statisticamente dimostrato, quindi è un argomento di rilevanza grande. Il termine tecnico sarebbe iperkeratosi, cioè una produzione eccessiva di cheratina, che è una sostanza abitualmente presente nello strato esterno della nostra pelle, che serve proprio come difesa. Infatti solitamente vengono proprio a contatto, no, con alcune parti della scarpa, sul mignolino soprattutto, no? Perché infatti, allora, ci sono varie cause, però fondamentalmente la differenza è che il callo, cosiddetto callo, è una iperkeratosi, cioè puntiforme, molto piccola ma profonda e quindi molto dolorosa. Sì. Mentre il durone è la stessa materia, lo stesso materiale cheratinico, ma più superficiale, più esteso, sì, è una placca, per così dire. Certo. Quindi con un dolore più diffuso e meno acuto, tipico del callo. Possiamo dire, mi scusi professora Vagnina, che i calletti stanno sulle dita dei piedi o tra le dita dei piedi, mentre i duroni sono quelli che si localizzano di preferenza sulla pianta, o meglio in quella, sì, zona dove noi appoggiamo il piede quando siamo in punta di piedi? Diciamo che in linea di massima è vero nell'80% dei casi, anche se si possono formare anche dei calli miliari o calli di altro tipo anche sulla pianta del piede per cause diverse da quelle pressorie, diciamo così. Però fondamentalmente le due aree maggiori sono le digitali e le plantari, come manifestazione di calli e duroni. Senta, professore, io voglio approfittare di lei per rispondere a Carmelo, che ci scrive: perché i calli fanno male quando cambia il tempo? Ecco, perché il callo è igroscopico, cioè è soggetto alle variazioni di acqua, quindi di umidità dell'aria. Più acqua c'è, più umidità c'è, più si gonfia e le terminazioni nervose vengono irritate e compresse da questo gonfiore e il male, diciamo. Quindi c'è una ragione, non è un modo di dire. Sono delle basi precise di formazione del dolore legato all'igroscopia. Senta, all'acqua. Senta, professore, sono oltre che dolorosi, antiestetici. Il callo va visto non come una malattia, ma come una spia, un sintomo di qualche cosa che non funziona. Quindi non qualcosa solo da eliminare, esatto, ma un'indicazione precisa per dire occupati di me. Bravo, assolutamente questo concetto, c'ho il callo e lo tolgo, ho risolto il problema, deve scomparire dalla cultura generale, perché invece di c'è il callo, mi avverte di qualcosa. Sì. E quindi andare a approfondire il perché. Ecco, ma allora quindi deve essere considerato una spia, ma pur vedendolo sotto questa luce, come facciamo per prevenirlo? Possiamo utilizzare queste delle creme, magari il pediluvio, la pietra pomice, che dobbiamo fare? Direi la mia linea è sempre su due fronti. La prima sul mantenimento della migliore idratazione e elasticità cutanea, perché se la pelle funziona bene si difende bene dalle aggressioni di qualunque tipo. Quindi nutrire la pelle del piede. Nutrire la pelle del piede un po' come si fa con quella del viso, però quella del piede è più importante perché ci porta in giro per il mondo. Ecco, invece noi ci dimentichiamo, perché solitamente anche la crema da corpo dopo il bagno e la doccia la diamo abbondantemente su gambe, braccia, spalle, ma sui piedi ci dimentichiamo di loro. Specifici che io chiamo i podofarmaci, che sono con dei principi attivi specifici per le varie situazioni dermatologiche del piede e che sono sicuramente di aiuto enorme per la prevenzione. Mi sta parlando difficile, vuol dire che io vado in farmacia o in erboristeria o al supermercato e trovo delle creme specifiche per i piedi e devo leggere tra gli ingredienti che cosa? Più che altro bisogna stare attenti da non usare una crema generica per anche il piede, perché il piede, oltre a mantenerlo bello, ha delle altre caratteristiche, come per esempio l'eccesso o la carenza di sudorazione è uno degli aspetti, per cui bisogna valutare un po' questi problemi e agire nella sua globalità, non è solo elasticizzare o non elasticizzare. E ci sono dei prodotti specifici per ciascuna di queste situazioni, per il piede che suda, per il piede secco, per freddo, per quello che è caldo, per quello che è esattamente troppo secco. Bisogna cercare la crema più specifica per il tipo di cute che ci si ritrova. Non è una caccia al tesoro, si trova in farmacia? No, si trovano, ci sono varie aziende serie che hanno prodotto. Va bene, questo quindi non una crema banale. Il piede vuole essere trattato come merita, con tutti i riguardi. Quindi idratare. Se si forma il calletto al primo stadio, cosa facciamo? Un po' di pietrina pomice? La prima cosa, attenzione a dove si è formato. Se si è formato sul dorso delle dita, è esclusivamente legato alla calzatura, perché camminando normalmente non si deve formare nessun callo sulla parte superiore del piede. Sì. Se è sotto può essere ancora la calzatura, soprattutto digitale, oppure inadatta, oppure semplicemente un discorso di ambulazione errata o di postura errata, quindi va vista in quell'ottica. Come ci suggerisce Alba, i calli che si formano tra le due dita, sono dei calli particolari, perché ecco, mi introduce in questo. Il callo generalmente è duro quando è sulle dita o sulla pianta del piede, molto duro, tant'è che a volte si elimina con l'uso di bisturi o di trapani per assottigliarlo, mentre quando si forma negli spazi digitali ha la caratteristica di essere molle, perché non traspirando gli spazi l'acqua si accumula e il callo viene il cosiddetto occhio di pernice nel linguaggio popolare, che è quel calletto con un puntino rosso che richiama questo discorso della pernice e che va trattato in maniera diversa dal callo tradizionale, perché la prima cosa è evitare il conflitto tra le dita, secondo permettere la traspirazione della pelle che possa di nuovo rigenerarsi. Quindi il messaggio per chi ha questi occhi di pernice, si chiamano? Sì. Ecco, allora avere l'accortezza di separare un po' le due dita, giusto? Per fare un po' respirare questo occhietto. Senta, andiamo a questi duroni, che si fa? Spesso andando dalla pedicure usano quelle specie di grattugini, no? Che cosa si fa? Anche qua idratazione oppure ci sono degli altri consigli? Il discorso è un po' diverso, perché generalmente questo tipo di duroni sono quasi il 90-95% sono dovuti a una pressione errata o mal distribuita sulla pianta del piede, quindi cercare di attutirli o toglierli, visto che in genere non sono così dolorosi, perché quando diventano dolorosi vuol dire che già lo stadio è molto avanzato e sta interessando le superfici più profonde. Servono quelle specie di cuscinetti che si mettono dentro le scarpe? Per le donne che hanno scarpe compressive, che ovviamente come professionista non devo consigliare, no, ma tra di noi, tra di noi professora Magnina. Sono ecco. anche piacevoli a vedersi, sì. ovviamente creano dei problemi ai piedi, si può cercare di sopperire un meno un po' a questo problema con quei cuscinetti in gel siliconici sì. che nel primi stadi, sempre negli stadi basilari, possono aiutare a distribuire le pressioni un po' meglio e evitare dei picchi molto forti in pochi centimetri quadrati, insomma. Per i casi più importanti, più severi, eccetera, allora possiamo dare il sito della Società Italiana di Podologia, è www.siponline, scritto siponline.it, dove, vero professore, date poi suggerimenti sì, e soprattutto... possono scrivere al contatto e noi diamo il podologo più vicino di referenza delle varie regioni italiane per fare una visita, un controllo. Ricordarsi che il messaggio fondamentale è che ogni callo o durone è una spia di un malfunzionamento. Ascoltarlo e non spegnerlo come una spia di una macchina che ci avvisa che l'olio c'è qualcosa che non va. Certo. È inutile spegnere la spia se poi non andiamo a controllare l'olio. Insomma, dire. Quindi quando il callo urla, invece che maledirlo, ascoltatelo e andate a esatto. vedere perché. Professore, io la saluto, la ringrazio. Grazie a voi della partecipazione e spero a presto risentirvi. Certo, buona giornata. Buona giornata, grazie. Fai tutti i tuffi che vuoi, nuota come un pesce, sguazza e mi raccomando divertiti. L'unica cosa che ti chiedo, cambiati il costume, non lasciartelo asciugare addosso. La professoressa Gismondo, direttore di microbiologia clinica del Polo Universitario Luigi Sacco di Milano, ti spiega perché. Beh, il caldo che abbiamo tanto atteso, la sabbia, l'acqua di mare, nascondono anche delle insidie e soprattutto il costume umido a contatto con la pelle, in quanto tutti questi elementi possono diventare dei nemici della nostra salute sino a provocare infezione della pelle, dei genitali e delle irritazioni molto fastidiose. Quindi assolutamente no al costume bagnato, perché con acqua e calore questo si trasforma in una culla per i germi, ma devo dire che non dobbiamo stare attenti solo al costume bagnato, ma anche a non sederci direttamente sulla sabbia, perché dobbiamo evitare la trasmissione e la crescita di germi nocivi che possono essere proprio nella sabbia e possono trasmetterci delle infezioni. È bene anche evitare di sedersi sui bordi delle piscine o sulle panche degli spogliatoi e mai passarsi gli asciugamani e magari usare dei prodotti per la pelle a pH acido. Vorrei dire che una particolare attenzione in questo periodo estivo deve essere prestata dalle donne al periodo mestruale. Ottimo l'utilizzo dell'assorbente interno che ci fa stare in acqua tranquillamente, che è sicuramente più confortevole, ma deve essere cambiato spesso, mai tenerlo oltre 2-4 ore. Ultimo consiglio, usare la biancheria di cotone, preferibilmente al 100%, in tessuto naturale di colore bianco, perché questo garantisce freschezza e protezione anche dall'eccessivo caldo. Caldo e umidità uguale molte volte anche ad infezione. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.